Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Alla diffusione delle rinnovabili su piccola scala, quindi soprattutto quelle in campo edile, in campo residenziale, dal fotovoltaico alle pompe di calore, dal geotermico al solare termico, alle caldaie a biomassa, anche alle stufe a biomassa. Ebbene, alla diffusione nelle case degli italiani e degli europei di queste tecnologie deve corrispondere evidentemente anche una diffusione parallela di competenze tra gli installatori, perché questi impianti siano insomma installati a regola d'arte. Ormai l'Europa ci ha abituato da tempo ad affrontare questo tipo di problematiche legate, per così dire, alla qualità, mettendo in piedi dei sistemi di certificazione. Non fa eccezione il caso dei piccoli impianti rinnovabili, ed ecco perché nasce il progetto europeo QualiCert, che mira a definire, diciamo, le linee guida a cui vari paesi europei si dovranno attenere per dar vita ad altrettanti sistemi di certificazione nazionale. Il partner italiano di questo progetto QualiCert è Enea, e in linea con noi c'è l'ingegnera Anna Moreno, che è responsabile dell'unità di formazione e informazione dell'Enea ed è anche responsabile per l'Enea di questo progetto QualiCert. Buonasera Moreno. Buonasera a lei. Allora, quattro coordinate per cominciare. Cosa certificherà QualiCert e chi è interessato da questa certificazione? Dunque, il progetto QualiCert è indirizzato essenzialmente agli installatori delle piccoli impianti di fonti rinnovabili di energia. Quindi è rivolto essenzialmente a una valorizzazione della risorsa umana che lavora in questi ambiti. Quindi diciamo che chi fa installazioni a un certo punto dovrà certificarsi per poter andare avanti a fare queste installazioni, è così? In parte sì, nel senso che tutti questi sistemi di certificazione sono sempre volontari. D'accordo. Però l'indirizzo dell'Unione Europea è che invece diventino obbligatori. Ecco, quando questo sistema, diciamo, dovrebbe eventualmente entrare in funzione? Entro il 2012 tutti i Paesi membri devono mettere in piedi un sistema di certificazione nazionale per la certificazione degli installatori. E questi si dovranno poi certificare entro quando? C'è una data? No, diciamo la data sarebbe subito, sarebbe ieri, a valle, certo, di questo, ma poi i tempi sono diversi in ogni paese. In alcuni paesi già esistono da anni questi sistemi, quindi noi stiamo rincorrendo gli altri paesi che sono già partiti. Comunque è il primo passo di una, diciamo, armonizzazione più ampia delle qualifiche professionali in Europa, è vero? Perché questo è un problema non da poco. Esatto, esiste già un'altra direttiva che è sulla European Qualification Framework, quindi una qualificazione europea che entro la fine di quest'anno tutti i sistemi, sia formali che informali, di formazione dovrebbero seguire questa matrice. E anche lì siamo abbastanza in ritardo, ci sono alcuni esempi in alcune scuole, in alcuni casi, ma la maggioranza delle persone non sa nemmeno che esiste, questo sistema. Che vuol dire concretamente che un professionista a cui è riconosciuta una certa professionalità in Italia, quando va in Francia gli viene riconosciuta anche lì, quindi insomma stiamo parlando di una roba importante, no? Esatto, perché una delle più importanti libertà dell'Unione Europea è quella della libera circolazione delle persone. Noi in questo momento, con l'abolizione delle frontiere, abbiamo in pratica, non possiamo viaggiare in qualsiasi posto, però non lavorare. Abbiamo in una libera posto. Circolazione turistica, diciamo così. Turistica, ma non dei lavoratori, per cui si trova che se uno viene qualificato in Italia è difficile che poi possa lavorare in Germania o in Francia se non consegue un altro titolo accettato da quei paesi, e viceversa. Senta, abbiamo già detto che in Italia non c'è un sistema di certificazione nazionale. Esatto. Quindi partiamo da zero? Quasi, okay. Nel senso che una piccola iniziativa, noi come Enea l'abbiamo fatta, abbiamo già qualificato circa 300 installatori nell'ambito del fotovoltaico, però è veramente una poca goccia cosa, nel, certo, mare. Certo. In Francia, per dare dei numeri, sono 35.000 gli installatori già certificati. D'accordo. Ecco, mi sembra che poi in Italia, come dire, si stagli all'orizzonte un rischio regionalizzazione, è vero? Esatto, perché l'articolo, il decreto legislativo che è stato approvato il 3 marzo lascia la libertà alle regioni di mettere in piedi questo sistema di certificazione, salvo poi rivolgersi all'Enea se, nel caso in cui non siano in grado di farlo. sempre entro il 31 dicembre 2012. E qual è il rischio? Il rischio è lo stesso che si è verificato con la certificazione energetica degli edifici, che ogni regione apre un sistema diverso, quindi invece di unificarci verso l'Europa apriamo 20 sistemi diversi di certificazione. E poi magari da una parte si ottiene una certificazione con un corso di 10 ore, dall'altra di 300, finisce che è come non avere niente, no? Insomma, esatto, perché poi il manuale Qualicert proprio definisce i criteri per fare queste certificazioni. Il sistema nazionale dovrebbe definire univocamente quante ore farle, che esami fare, quanta teoria, quanto pratica, ma anche poi sugli istituti che fanno la formazione, sui docenti, perché attualmente la formazione professionale spesso è lasciata a istituti che sono accreditati presso le regioni, ma nessuno va a controllare né le strutture dei laboratori né tantomeno la qualità della docenza. Senta, da questo sistema attualmente resta però esclusa la parte che riguarda l'involucro, che è altrettanto importante. Pensiamo per esempio alla criticità di montare un infisso ad alta efficienza. Infatti questo è l'obiettivo dell'Unione Europea, infatti è uscito un nuovo bando con scadenza a metà giugno, nel quale proprio il progetto si chiama Build Up Skills, proprio per identificare i bisogni di tutte le forze lavoro per intervenire non solo sui nuovi edifici, ma soprattutto sugli edifici esistenti per la riqualificazione energetica. Grazie ingegnere Anna Moreno. Prego, buonasera. Bene, ci fermiamo qui. Domani notizie dal mondo. Buona serata.